Yeah, buonasera. Non si capisce chi è? Ora. Sì, prova. Ora, tre, prova. Attenzione, 10K. Allora, attento, sì, non c'è problema, sta facendo un modo, quello che è, non c'è problema. Mi ascolti, sì. Mossi che ti ascolto, hai messo la segretaria? No, senza segretaria la verità, quindi a un certo punto sono normale, come si dice, no? Ma è tutto normale, ok? Non ti ascolto benissimo, la radio forte, Meglio così, sono contento, la verità, sono contento. Ho detto prima, nelle tue zone non modula più nessuno? Sì, già modulavo qua, la verità, ogni tanto, non sempre, la verità, Ne sentivo Sassari, Nuoro, da tutte le parti della Sardegna, adesso sento soltanto te, dai. E ogni tanto già parla qualcuno, ma non sempre, la verità. Quindi, a un certo punto, cosa ci posso fare io? Io mi dico che non posso farli, la verità, in Sardegna, qua. Che tempo fa a Sardegna? C'è il sole, fa caldo? C'è il sole, fa caldo qua, voglia. Capito mi hai? Appunto, capito mi hai, tanto per... Quindi, siamo a posto, in pratica. Meglio così, sono contento qua. Però, con quello... In pratica potrei fare gli ex con noi, tranquillo, non c'è problema. Niente problema, niente. Appunto per quello che te lo sto dicendo, non c'è nessun problema, hai capito? Così diciamo noi, hai capito, mi hai. Sì. Ma in qua zona Sardegna molte pecore. No, qui pecore non ce ne sono, grazie a Dio. Qua siamo a Sassari, non siamo nella zona di Nuoro, siamo a Sassari, hai capito? Vicino alla costa svelata, quindi a un certo punto... siamo a posto. Va bene, scherzavo, dai. Mica mi sto prendendo, non si preoccupare per quello, lì ci mancherebbe. Grazie a Dio, non c'è nessun problema. Mi ascolti, sì? Sì, sempre. Ah, meglio così, ci mancherebbe. Sono contento. Contento tu sei? Ho che apparato stai usando? Midland? Io Midland non ne ho, già lo sai, quindi la parico ce l'hai tu, non Midland, ma lo antico, già lo sai, anni 70-80, quindi a un certo punto dovrebbe essere, non lo so, adesso vediamo un pochettino, indovinare, dovrebbe essere, non me lo ricordo adesso. Tu vuoi indovinare che apparato c'ho io? Dovrebbe essere non è il coso, la Gen Quinto, ma dovrebbe essere un'altra cosa. Dai, $1,000,000, indovina. La Gen Quinto? No. Non è la Gen Quinto, vabbè, allora dovrebbe essere... che cazzo, non me ne ricordo più la verità. Sto invecchiando, va, io sono nato negli anni 70, qui da un certo punto ho conosciuto tutti gli apparati, quindi a un certo punto, se non quinto dovrebbe essere, non mi viene in mente il nome, la verità. Bene, ti piace questo, il BP lo riconosco, non ti preoccupare, ma quindi non è questione di quello. Dai, scendiamoci, sì, domani. Volevo dare $1 milione, adesso 500 milioni. C'è ragione anche tu. Aspetta che ti faccio sentire un altro pip. Senta. No, dimmi oggi questo pip. Ci sto pensando, lo sai. Il bip ci sto pensando. Lo conosco, ma ci sto pensando. Va. Dunque, color oro. Un apparato color oro. 40 anni passa. Più di 40 anni c'è questo apparato. Nelle mezzo 200. No, no, no. Dimmi di no. Nelle mezzo 200 quello è. No, no, no, no. Sei fuori, sei fuori. Come no, lo succedo io. Quello è sempre 200. Non può essere il caso del Gran Quinto. Il Gran Quinto c'ha il bip lungo, quindi poi ci sono gli altri apparati strani, quindi a un certo punto, secondo me l'aveva messo 200. No, no, no, c'ha 400 canali questo. E secondo te cosa sai? No, è messo 200, non è 400, ne ha 261 per essere esatti, quindi... Senti un po' di peso, 6 per 5, quale va? Quindi, non lo so, ma tu l'hai detto, tu dicevi no, vabbè, pazienza, io ho buttato giù così, perché sono convinto che è quello. Non può essere altro, a un certo punto. Dunque, c'è 6 bande da 50 canali. A parte la modulazione, che c'è la modulazione dei toni alti e cose del genere, quindi, non lo so, più che quello non potrebbe essere, la verità. Non lo so, adesso vediamo un po'. Pazienza, va, ma voi non andate a saperlo, la verità, vabbè, che apparecchio è, ma comunque sia, non c'è problema. Allora, adesso vado liscio, che prego. Non ho capito. Mica si sente il mio canto esce col fischio qua. Si è uscito tutto a fusci, si è uscito. Sì. Cioè, ogni tanto... Adesso ho visto che ti sei accorto che stavo uscendo a fischi, sì. La televisione accesa, non senti. Adesso basta. Stai uscendo tutto disgraziato, sembri secondo me c'hai problemi in trasmissione, controllati un pochettino il coso, sta scadendo qualcosa, perché me l'ha fatta anche a me qua, la verità, col Kenwood, quindi con 680, a un certo punto non uscivo più di radio, adesso succedo con 680, che aperto, tu figurati tu, e funziona benissimo. Te lo sto dicendo, c'è problemi in cosa, in trasmissione, quando scalda i finali danno problemi, quindi dagli un'occhiata veloce. Basta proprio di vedermi, davvero mi non sto scherzando, fatto dire se c'è qualcuno vicino a te, fatto dire da qualcuno che c'è vicino a te, perché non è possibile, non ti sto facendo balle. No. sta uscendo proprio basso di radio, come facevo a me, tale uguale, quindi c'è problemi di evidentemente c'è il finale che sta scaldando, eccetera eccetera, a un certo punto. Ah, senti i fischi, io sto uscendo, la verità, sto trasmettendo, se vuoi ti faccio anche la foto, con l'apparecchio aperto, l'apparecchio aperto, il 140 aperto, per poterlo freddare, il discorso è quello, per avere problemi, perché prima quando andavo a parlare, a un certo punto, tutto un tratto, saliva l'audio, saliva. Ma se scende proprio male, ma davvero male mica, fallo raffreddare un pochettino l'apparecchio, poi mi richiami, già sono qua, mica me ne fuggo, non c'è problema. Sono qua all'ascolto, non c'è problema, tranquillo. Devo mettere il recetto quello, l'apparecchio. Adesso me lo sono ricordato, e l'ho messo il recetto. Dimmi di sì o dimmi di no. Sono da Bippi, mi sta parlando, sono da Bippi. Dovrebbe essere il mezzo del cento. E sono, cioè l'agricoltura è diverso, ma il mezzo del cento è tutta un'altra cosa. Adesso me lo sono ricordato. E visto che c'è un po' di memoria, è strano, un vecchio CB riconosce il caso di apparecchi, a voi se riconosce. Ho indovinato, hai visto? Adesso me ne sono ricordato, la verità, grazie. La memoria piano piano, così cioè no, funziona a un certo punto. Quindi. Daniele, da dove stai trasmettendo? Daniele, da dove stai andando? Attento compagno, compagno. Aqui ti sto andando da Napoli, Sud Italia. Sì, mi senti? Ora, ci sei. E le mezzo 200 ci sei? No, qui in quinto mi sono svegliato. Dopo un po', se ci sei, rispondimi, non c'è problema. Sono qua. Allora, ci sei? Allora. Ciucucciù. Ora, 1, 3, 4, 5, 6, prova. sì, ci arriviamo. Ultimo pulsante di destra.